X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Pierluigi Bersani, 65 anni, emiliano, sposato con due figlie, da piccolo ha contestato il parroco della sua parrocchia per le scelte che faceva nell'uso delle offerte dei fedeli. Poi è stato uno degli angeli del fango che ha salvato a Firenze le opere d'arte dall'alluvione. Presidente della Regione Emilia dal 93 al 96, è stato segretario del PD dal 2009 al 2013. Ha vinto le primarie con Renzi, ha gestito l'elezione fallita di Marini e Prodi al Quirinale e il raddoppio della presidenza di Napolitano. Tempo fa ha avuto un ictus dal quale si è ripreso completamente. Ha fatto il primo tentativo fallito di coinvolgere i 5 Stelle al governo. Proprio oggi è il suo compleanno e noi per regalo gli abbiamo fatto un collage delle splendide imitazioni di Crozza. Non è che sia stati qui a pettinare le bambole o no, aspetta, a Genova diciamo asciugare gli scogli. Ragazzi, porco boy, oh, c'ha mica passi. Oh ragazzi, dobbiamo vincere, porco boia. Vieni via. Noi non abbiamo vinto, ma siamo arrivati primi. Prega questi luoghi. Conservatore a me, che non sono riuscito manco a conservarmi il posto di lavoro, fascina. Neanche. Posso starci da capitano, posso starci anche da mosso. Io non abbandono la nave. O vincono loro o vinciamo noi. Ho azzeccato solo la O. Voglio un partito che non si metta a fare inciucci con Verdini. E quindi? Voglio entrare nei 5 Stelle. L'albero di Natale non lo addobbi mica con le palle che si inventa Renzi, eh? Onorevole Bersani, ma il ponte sullo stretto è una palla di Renzi? Di Natale? Preferivo quando diceva: se avete 8 miliardi metteteli nella scuola, poi non so se sia una palla. E quindi lei non lo farebbe il ponte sullo stretto? Ci sono altre priorità sicuramente per il Sud. Però anche Prodi da presidente dell'IRI lo voleva, sbagliava anche lui allora? No, quando si trattò di governare Prodi riconobbe che c'erano altre priorità, tutto qui. Senta, oggi oltre a essere il suo di compleanno, l'abbiamo detto, tanti auguri, è anche il compleanno di Berlusconi, gli ha fatto gli auguri? Glieli faccio da qui, molto volentieri, e li faccio anche a quei malcontati 150.000 italiani che compiono oggi gli anni, perché non siamo solo in due. Non siamo solo in due. Senta, Berlusconi ha detto: fare politica non mi piace, ma sono sceso in campo solo per battere i comunisti. Insomma, ha vinto lui. Beh no, alla fine siamo ancora il mondo, eh. Sì, come comunisti, cioè, dice. Alla grande. Comunque, dopo 20 anni di anti-berlusconismo, il Jaguar non l'avete smacchiato e la ditta, come lei chiama il partito, ha cambiato completamente direzione. Lì una piccola sconfitta c'è stata, mi pare. Quando dicevo smacchiare il Jaguar non intendevo mica ammazzarlo Berlusconi, intendevo certo che non governasse. E dal 2013 non governa più, quindi un pochino l'abbiamo smacchiato, no? Senta, ebbè, una bella interpretazione ottimista. Senta Bersani, girando per l'Italia quest'estate, lei ha visto la renzizzazione della ditta? Ma insomma, non c'è bisogno di girare, ecco, basta conoscerla un po' questa ditta per vedere anche gli elementi di involuzione che ci sono stati, cioè la percezione che si sta un po' abbandonando una radice ideale, culturale, che possiamo chiamare di sinistra. È quello che ha trovato girando l'Italia? L'ho trovato nel disagio di tanti nostri elettori, di tanti nostri militanti, sì. Senta, ma dopo le amministrative Renzi aveva addirittura detto: ci vuole il lanciafiamme per bonificare il PD. Che effetto le ha fatto questa frase? Pessimo effetto, perché il risultato che abbiamo visto in quelle amministrative testimonia che un lanciafiamme era già passato, purtroppo. Ma i vostri 20 anni di anti-berlusconismo, come unico collante sostanziale politico, che cosa hanno prodotto? No, io contesto questo. Sono stati 20 anni di anti-berlusconismo. L'Ulivo è stata una cosa creativa. È stata e rimane, secondo me, anche per il futuro, una cosa creativa. C'è un grande campo di centrosinistra con i suoi valori e un partito in mezzo, che deve essere il PD, che sostiene questo campo, lo promuove, lo organizza, ne fa da infrastruttura. Questo è l'insegnamento dell'Ulivo e credo che non sia stato solo anti-berlusconismo. Prodi dice però che il PD è una missione incompiuta, ha ragione? È giovane il PD, ha 8 anni, 9 anni, per amor di Dio, è incompiuto come è incompiuto un bambino. E lo vede crescere? Spero di sì, spero. Naturalmente c'è da lavorare. Cioè, sta facendo la scuola giusta? Non è detto. Senta, onorevole Bersani, lei ha detto il berlusconismo ha ridotto la politica a tifoseria o a rabbia impotente. Ma voi dove eravate? Non è che faceva tutto lui? Ma qualche errorino l'abbiamo fatto anche noi, lo stiamo anche facendo a proposito di tifoseria, naturalmente. Siamo sulla stessa strada con renzismo? Ma sono strade che possono avere qualcosa in comune, e cioè, io la chiamo così, c'è un eccesso di fiducia nella comunicazione, che pure è importante, essenziale, ma alla lunga ci sono i fatti, la durezza dei fatti prevale, la politica che non si occupa della profondità e della durezza dei fatti alla fine ha le sue smentite. Senta, ma c'è qualcosa che si pente di aver detto di Berlusconi? Tendo a ricordare solo le cose giuste, può darsi, magari lo saprà lui. Senta, però, per esempio, per dire, dico io una cosa concreta, almeno sulla politica estera, con Putin, col ruolo di Putin, con Gheddafi, con l'Iran, ha avuto ragione lui, era abbastanza da solo, lo ammette? Ma forse ha avuto un po' di ragione, aveva un po' di ragione sulla Libia, non sull'Iraq, per esempio. Non l'Iran, ho detto. Sì, dico bene, non sull'Iraq. Ah, non sull'Iraq. Ecco, perché ricordiamoci quei passaggi. Anche con Putin ha avuto ragione. A metà, guarda, con Putin le ragioni e i torti sono sempre difficili, d'accordo? Perché c'è un problema di fondo, che questa Europa è una propaggine del continente russo. Anche gli americani devono capire che noi dobbiamo trovare un modo per convivere e per andare d'accordo. Ah beh, De Gaulle diceva l'Europa dell'Atlantico agli Urali. Ok, quindi, da lì in giù. Come trovare questo modo andrebbe approfondito il discorso, certo. Non credo che Berlusconi ci abbia azzeccato tutto. Poi in generale Berlusconi aveva un modo di proporsi che come sappiamo non fu apprezzato dall'opinione pubblica mondiale, qualche danno all'Italia ne è venuto da quello. Senta, lei e Berlusconi siete due persone che è difficile immaginare più diverse, però una cosa vi ha avvicinato, il dolore. E forse anche la paura di morire. Quando ha avuto l'ictus, lei l'ha avuta la paura di morire? Ho avuto la percezione che assolutamente poteva essere. Ma devo dire, anche come esperienza, non è mica così difficile. A volte pensiamo che sia molto difficile. Non è così difficile, francamente. No. Con Berlusconi sì, siamo diversi, ma forse non del tutto diversi. Cos'è senso... che vi assomigliate dove? Non lo so, io ci vedo dentro grattando da avversario naturalmente un tratto di umanità che mi sento in qualche misura di condividere. E queste sono cose importanti, anche questo 29, cosa simboleggia? Che alla fine avversari, ma siamo tutti quanti su una palla che gira per lo spazio, insomma, ci deve essere anche, senta, non bisogna mai arrivare all'odio, all'aggressività. Ma per lei cos'è cambiato nel suo modo di vivere da dopo l'ictus? È cambiato qualcosa? No, io devo dire di no. Naturalmente in casa mia mi dicono invece che dovrei stare proprio attento. È il modo di pensare o di fare politica è cambiato, no? Ma sì, forse mi si è accentuato una cosa che avevo anche prima, insomma c'è qualcosa anche di più di quello che facciamo tutti i giorni. Adesso c'è il referendum, parlando di tutti i giorni, lei dice non è il problema primo degli italiani che non mangiano pane e referendum, allora è un voto che non è importante? È importante, ma è stato un errore clamoroso farne a un certo punto una specie di giudizio di Dio, cosa che ci espone a speculazioni di ogni genere, certo. Finanziarie, politiche, eccetera. Voglio dire, non sottovaluto, ma rendiamoci conto, lo dico a chi è fuori dall'Italia, le cancellerie, che noi adesso abbiamo due camere e ne avremo due anche dopo. C'è un via vai normativo, ce l'avremo un po' anche dopo. Vabbè, le cose un po' si semplificano. Per amor di Dio, vedremo. Senta, ecco, però Non facciamone una questione di vita, ecco, di morte. Perché il giorno dopo si è ammessi come il giorno prima, sul piano sociale. Lei ha approvato la riforma, però poi ha detto no, poi adesso sembra il campione del ni. Oggi a che punto? Io ho votato contro, non ho votato la fiducia sull'italico. No, ma sto parlando della riforma. Io ho votato la riforma. Io rimango da sempre della seguente idea: il vero oggetto che abbiamo davanti, drammaticamente, si chiama democrazia, non si chiama istituzioni. Sì. Quindi, se noi da qui al 2018 consegniamo queste nuove istituzioni a dei meccanismi che deformano gravemente il processo democratico, l'elezione dei senatori e non la nomina. No, ma lei sta parlando della legge elettorale. Io le chiedo, la riforma della Costituzione, sì o no? Sono due cose diverse. Non sono cose diverse. Come si fa a dire che Renzi adesso dice di modifichiamo la legge elettorale? Il fascino del no, il fascino del no sta in questo: col no salta l'italicum. Sì. Ok? Benissimo. E se uno pensa che il problema sia quello, ma un problema serio, con quel che succede in Europa e nel mondo, problema serio, allora è portato a dire, come dico io, o me lo togli questo problema. E lui dice adesso discutiamone. Discutiamone, sì. Lei dice che fa il furbo. Sì. Ci crede alla discussione o no? Ma io credo ai fatti. Il governo mise la fiducia sull'italicum. Diciamo, lei che fa prendere l'iniziativa. Lei cos'è che non accetta proprio dell'italicum? Ma insomma, non accetto. Mi dica cosa più grave. La cosa più grave è che col 25% puoi prendere tutto, compreso il Presidente della Repubblica, organi di garanzia. Primo. Senta. Secondo, che nomini i tre quarti dei deputati. Okay. E non consenti. Se vince il no, Renzi, allora cosa deve fare? Si deve dimettere? Perché... No, non si deve dimettere. No. È un errore clamoroso il governo al tema costituzionale. È una cosa istituzionale. Assolutamente. Senta, ma finora per lei è meglio il Renzi Presidente del Consiglio, il Renzi Segretario del Partito o nessun Renzi? Nessun Renzi è troppo, via. Ecco. Io dico cosa questo. Salviamo, io direi questo. Ci vuole un segretario di partito che faccia il segretario di partito. Quindi lei dice, ecco, separiamo le due carriere. Assolutamente. Senta, che cosa le piace di più di Renzi? Quello, insomma, ragazzi, c'è il dinamismo, fa briga, la determinazione. E l'accordo sulle pensioni le piace? Sì, con una miliardata in più si potrebbe far di meglio. Ecco. Certo, sicuro. Sì, secondo me si potrebbe anche trovare, ma insomma. Senta, mi dice chi ha tradito su Prodi Presidente della Repubblica? Dovrei fare un elenco, non tutti 101, ma di una novantina. Facciamo una sintesi. Una novantina. Avevano una maglietta oppure no? Ma no, ma è stata una combinazione fra chi voleva far fuori Prodi e chi voleva far fuori me. Basta, è tutto lì. Ma nomi non ne fa? No, nomi non ne fa. Senta, adesso in vista del DEF è esplosa la guerra con Bruxelles. È uno scontro elettorale per sedurre gli antieuropeisti oppure è una giusta battaglia? È una battaglia giusta e fatta in modo giusto. Io sostengo dovremmo farla solo per gli investimenti. Sì. Al resto dobbiamo pensarci noi. Se la si fa così è giusto. Va bene, quindi se serve per rilanciare l'economia e anche per rilanciare la soluzione del problema, al resto dobbiamo pensarci noi, ragazzi, perché... Ma perché bisogna avere tanta paura così di sforare il 3%? E perché ce lo paghiamo noi, Minoli? No, lo so, però... Non è che qui siamo diventati tutti tifosi, qui improvvisamente, del debito e del deficit. Cara Europa, lasciaci far del deficit, lasciaci far del debito. Ma qualcuno poi deve pagarlo quel debito. Sì, però l'America, siamo per esempio, noi. Si è rilanciata senza austerity. Perfettamente. Infatti dico, se stiamo parlando di investimenti... Investimenti, benissimo. Ma di quello stiamo parlando. Purtroppo ecco, però, qua non però si parla. Il peggio che può capitare... ipotizzando investimenti e incorrere in una procedura di infrazione, si può anche dire chi se ne frega. Ma io quella procedura lì l'avrei presa su piuttosto quando c'erano le famose quattro banche, abbiamo applicato il bail-in. Lì si poteva andare a Lussemburgo. Bail-in l'hanno votato tutti il bail-in. Sì, però noi potevamo, senza sapere cos'era. Secondo me noi potevamo starne fuori nella prima applicazione, come eravamo messe, sono andiamo nei particolari, quindi lì si poteva fare. Andare in infrazione non caschi il mondo, no, voglio dire. Tanti paesi sono andati, non è capitato il niente. Il problema è di avere delle ragioni solide e sapere che alla fine nessun pranzi gratis non ce n'è. No, quindi, lei ha detto l'investimento. Noi dobbiamo pensare cosa vogliamo fare noi, italiani, ecco. Io credo facciamo debito solo per investimenti. Perfetto. Ragazzi, perché se no e il resto facciamo redistribuzione interna. Io il 2013 dissi, andai in campagna elettorale dicendo uno sforzo comune dove chi ha di più deve dar di più. Senta, si parla tanto adesso, del primato della politica, però il primato della politica è quello di regalare il Monte dei Paschi e le banche d'affari americane, eh? No, no, io quello proprio... Come si chiama? Non lo so, che, spero che non capiti e spero che non ci si applichi la politica a una cosa di questo, a un obiettivo di questo genere. Cioè la politica è meglio che stia fuori, è meglio che stia fuori. Cioè, mentre invece la politica deve occuparsi di avere più margini per intervenire dal lato delle sofferenze delle banche, questa è una battaglia da fare in Europa. Senta, ma credo a proposito che... di primato della politica, la Spagna senza governo da quasi un anno, il PIL cresce, cosa vuol dire? Ma andrebbe vista meglio questa cosa. Quelli non fanno l'accordo per la Catalogna, mica per l'altro. E quindi nel frattempo c'è un governo che paradossalmente è molto tranquillo nel governare. Ecco, quindi, cioè l'ordinaria insomma, amministrazione fa tutto. Fa tutto. E intanto il sistema assorbe le novità politiche. Attenzione, perché bisogna avere lo sguardo un po' lungo. Alla fine di queste due o tre elezioni ci fanno ridere, lasciamo star chi vincerà, ma Podemos, Ciudadanos, eccetera, verranno assorbiti dal sistema, avranno un loro ruolo, una loro cosa. Senta, ma in Italia perché intanto... i governi passano, ma la democrazia che resta. È un problema. Senta, in Italia intanto sulle scelte da fare per restare nei parametri europei sembra che tra Renzi e Padoan ci siano dei forti contrasti, le risulta? Guardi, io non ne so nulla. Non ne sa nulla? Francamente non ne so nulla, spero che non sia vero perché sarebbe una roba piuttosto sgradevole. Senta, ieri l'ingegner De Benedetti, tessera numero uno, numero due, non lo so, del PD, ha detto che dopo il referendum Renzi e Parisi si accorderanno. Lei pensa possibile? Non credo che ce ne sarà bisogno. La maggioranza che ha Renzi ci sarà anche il giorno dopo. Assolutamente. Senta, intanto però i populismi dilagano e il distacco tra classe dirigente e popolo sono sempre più profondi. Lei ne parla molto, ma è solo colpa della globalizzazione? Non è colpa, vede, Gramsci diceva che la storia è maestra ma non ha scolari, verissima cosa. Ci abbiamo già avuto globalizzazioni nella storia, certo. È quando ripiegano che si il pensiero positivo diventa aggressivo. Viene fuori il protezionismo, viene fuori la chiusura, non voglio le merci, non voglio uomini altrui. Vengono fuori tutti gli egoismi dal ripiegamento della globalizzazione. La globalizzazione sta rallentando da due anni, da tre anni. Questo è il fenomeno che De Benedetti vede. Sì. E quindi noi non possiamo sottovalutare i rischi democratici di questa fase. Infatti, democrazia è a rischio. E torniamo al tema elettorale. E allora io dico, in America quello che sembrava impossibile sembra capitare. Cioè la vittoria di Trump è possibile, le avrebbe mai pensato? Io penso, cercando di essere buon scolaro della storia, che invece sì, perché l'anno prima nelle Filippine, in un paese di 120 milioni di abitanti cattolico, vince uno che fa vedere i cazzotti nei manifesti. In Ungheria cosa sta succedendo? Certo. In Slovacchia cosa sta succedendo? Ma quindi se Bush padre ha dichiarato che voterà per Clinton, vuol dire che il partito repubblicano è esploso, cioè il sistema è saltato. Perché quella cosa che viene fuori, non immaginiamola come la destra classica e neanche come una cosa che starà in un partito. È un campo. E bisogna rispondere altrettanto con un campo di centrosinistra, non con un partito solo o con un leader solo. Ok, quello che diceva a proposito prima, di Ulivo. Appunto, ma c'è un'analogia, secondo lei, tra la discesa in campo di Berlusconi e il fenomeno Trump? Non ce la vedo nei tempi di allora, ancora il fenomeno naturalmente non ce la vedo francamente. Perché Trump appartiene a questo, purtroppo, questo mondo nuovo che sta venendo fuori. Io penso però che alla là fine erano anche non esplosi i partiti anche là, eh? quando è arrivato quella Berlusconi. È la storia italica del fatto che alla caduta del muro ci siamo trovati con Tangentopoli noi. Esatto. Questo è il punto. E che non l'abbiamo ancora risolto, per amor di Dio, perché in quegli anni in tutta Europa ci fu un rinverdimento della politica e da noi ci fu Tangentopoli. Ma sul piano degli equilibri geopolitici la vittoria di Trump cambierebbe molto, secondo lei? Ma guardi, viene fuori un meccanismo, io penso che non vinca, spero, eccetera. Vabbè, perché viene fuori un elemento isolazionista, un ripiegamento protezionista. Però nello stesso tempo lui dice che bisogna fare accordo con Putin per gestire quindi, il mondo. Infatti io immagino che il problema sarà fra quel modo e la Cina sostanzialmente. Da queste parti forse avremo meno incursioni, interferenze o protagonismi americani. Ma in attesa di quel futuro però c'è da giudicare il presente, cioè l'era Obama. Ottima presidenza per gli americani, l'America va bene, pessima per gli europei e per gli equilibri del Mediterraneo, così? D'accordo? Ma pessimo, oggettivamente, in quegli anni, mica grandi risultati, ma bisogna sapere che in quegli anni lì gli Stati Uniti hanno riformulato il loro baricentro di interesse strategico. Appunto, quindi per noi quindi è andata per male. Noi non c'è stato un gran guadagno. Ma in politica estera Obama, per quello che ci riguarda, è stato indeciso a tutto. La Siria prima la vuole bombardare, poi cerca l'accordo con Putin. In Libia Adesso dice che era meglio se restava Gheddafi, è un po' tardi. Deficit di cultura politica, cioè. Sì, ma chi può dire di averci preso in questo adesso no, non carichiamo tutto su Obama. Qui siamo in politica per amor di Dio, siamo di fronte a 100 anni della pace di Versailles, un passaggio storico di riorganizzazione del Medio Oriente e del Nord Africa. Vorrebbe quelli più titolati a dire cose è l'Europa che le ha tirate lei le righe, mica Obama, in quel mondo lì. Quindi la vergogna vera è che l'Europa non trovi in questo problema, cioè il sud, il Mediterraneo, il senso della sua missione per i prossimi 20 anni. Certo. Perché anche a prescindere dalle guerre, noi non possiamo dimenticare che abbiamo una media d'età in Europa di 46 anni e laggiù c'è una media di 23 anni. Certo. E l'Italia in mezzo ai vasi comunicanti. In prospettiva, è meglio l'America della NATO o la Russia di Putin? Come punto di riferimento, lei diceva, la Russia è Europa. Ma va bene. La NATO che lavori perché l'Europa trovi un buon equilibrio con la Russia. Noi ci aspettiamo dagli amici una mano a andare d'accordo con la Russia, non una mano a litigare. Ma no? Per adesso ci fanno litigare. Ecco. Intanto in Europa esplode il problema degli immigrati, diceva lei, i muri si alzano da tutte le parti e l'Italia rischia di restare intrappolata. Renzi dice, se l'Europa non c'è facciamo da soli. No, non facciamo da soli. Io... Però se ci sono solo muri in giro... Non possiamo far da soli. Noi dobbiamo combattere ancora perché l'Europa capisca il problema che ha davanti. Sì, adesso vedremo. Benissimo. Il referendum. Insomma, allora, per esempio, posizioni come quelle di questi 4 paesi che stanno attorno alla Polonia, Ungheria, eccetera, non sono accettabili. Lì alziamo la... perché non è che puoi avere dall'Europa solo il buono e il problema lo lasci agli altri. Fuori dall'Europa. Ma ci sono delle leve. Per esempio legare gli interventi economici dell'Unione Europea eccetera all'accettazione di alcune regole laddove c'è un problema di accoglienza. Schengen. Siamo 550 milioni, adesso parliamoci chiaro, bisogna che ci attrezziamo per prendere 1 milione o 2 all'anno qui. Voglio dire, quindi bisogna darsi un'organizzata e ognuno deve fare il pezzo suo. Un commissario per l'organizzazione come Fassino, cosa serve se c'è già il Ministero degli Interni? È troppo? Il problema è grosso, più sono e danno a mano. Più fanno confusione? No, spero proprio di no. Senta, quest'estate D'Alema ha detto Renzi ha deciso di rottamare me perché sono il simbolo di quello che odia, la sinistra. Lo pensa anche lei? Ma sa, una volta ho sentito da Renzi dire che per lui le bandiere rosse sono solo quelle della Ferrari. Per quanto anch'io voglia bene la Ferrari, ho un'altra idea sulle bandiere rosse. Ma dal 2013, dall'anno della non vittoria, potendo riavvolgere il nastro, cosa vorrebbe non aver fatto? Mi dica una cosa, che siamo in chiusura. No, bisognava capire di più cosa stava succedendo dal lato appunto di Grillo. Noi ci abbiamo lasciato 5-6 punti, io lo vidi nell'ultima parte della campagna elettorale, lo percepì, Era tardi. Ma era purtroppo era tardi, sì. Dovevamo affrontare un riformismo più radicale. Noi. Ma si batterebbe ancora per la rielezione di Napolitano? Nelle condizioni date, sì, certamente. E il suo incontro con le 5 Stelle, visto oggi, cosa significa? Una sensazione tardiva, quello che diceva prima? No, io sono orgoglioso di quell'incontro. No, una sensazione, dico, insomma, prima o poi... Ha messo un punto, bisogna. Prima o poi bisogna, no? Prima o poi bisogna. Quindi bisogna cominciare. Bisogna cominciare da qualche parte. Senta, no? A Roma la Raggi fa fatica, ma la situazione ereditata è drammatica. Bisogna darle tregua un po' di tempo? Sì, non è che dopo 48 ore possiamo scoprire che ci sono i topi. Ho detto, saranno topini piccoli, 2 giorni. Adesso non esageriamo, non conviene a nessuno esagerare. Guardate. Prendiamola su, insomma, con i tempi necessari. E se fa qualcosa di buono, diamole una mano. Ecco, ma l'ex segretario del Tesoro Clinton, Larry Summer, dice che ci avviamo verso una stagnazione secolare. Lei ci crede? È un dibattito aperto, certamente questo la globalizzazione ci lascia nel suo ripiegamento una deflazione, cioè un meccanismo che raffredda l'inflazione e quindi raffredda anche le aspettative e le possibilità di crescere. Secolare. Nessuno ha la vista così lunga. Però anche il centro studi di stagnazione, c'è poco da fare. Il centro studi Confindustria dice che a questi ritmi l'Italia tornerà a livello pre-crisi solo nel 2028. Se è così, non sarebbe meglio dirlo chiaramente agli italiani? Alla grande. Io quando dicevo uno sforzo da fare ancora, anche se la crisi si era fermata, aveva toccato la piattaforma, è perché quando tu perdi 10 punti di PIL nella crisi e 25% di produzione industriale, sei andato sotto un camion. Certo. Gli altri non sono andati sotto un camion. Va detto con chiarezza. E quindi va detto, non possiamo dire che il problema è alle spalle. Qui noi dobbiamo chiedere all'Europa margini per gli investimenti e per il resto, se dobbiamo trovare soldi per esempio per le pensioni, bisogna che noi li troviamo dove sono, da noi, certo. Perché non possiamo continuare a far deficit e debito così, perché prima o poi qualcuno li paga, abbiamo tutti dei figli. Quindi... ma mentire è indispensabile in politica? Assolutamente no, a dire la verità si rischia di perdere, ma c'è il suo gusto però. Senta, per finire, lei è il re della metafora. Ha spiegato molto bene anche il perché. Senta qui. Per me la metafora è la figura retorica più democratica che c'è, perché riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Il linguaggio è qualcosa che fa con la politica. A me dicono spesso se sei dialettale, sei trasandato. No, io penso che se un linguaggio cerca di farsi capire, allude a una politica che deve essere semplice, trasparente, concreta, senza perdere il sogno, ma senza trasformarlo in una favola o in una demagogia. Ecco. E quindi a me piace una politica che si fa prendere in giro, ma che non si lascia disprezzare. Ecco, ma con che metafora descriverebbe oggi l'Italia di Renzi? Intanto le dico che ci sono tantissimi messaggi che inneggiano al ritorno della politica, e quindi è un complimento per lei. La metafora per l'Italia, guardi, adesso mi viene la mia bella rosa con tante spine, però. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SBS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da borsadelcredito.it, il modo migliore per far crescere i tuoi risparmi. Mix 24. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, 349 238 6666 gli SMS e anche per i vostri WhatsApp. Da oggi attiva anche la segreteria telefonica di Mix 24 al numero 02 46 52 41 83. Se avete commenti, suggerimenti, critiche, lo ripeto, il numero della segreteria 02 46 52 41 83. Titolo dei faccia a faccia, Mario. Ma dunque, Bersani molto, sempre molto efficace nelle sue risposte, caustico a volte ma gentile, sempre però, secondo me, alla fine è il partito che non c'è. Quello che dovrebbe arrivare. Tu, Pietrangelo? È il sapore della verità, la sconfitta. Che cosa ci fai ascoltare oggi? No, faccio bello, seguito bello, alla sua metafora. Esatto. Che ci fai ascoltare oggi, Pietrangelo? Eccolo. Pietrangelo? Allora, oggi niente metropolitana, oggi a piedi nel parco a Villa Panfili ho visto due di due che cercavano i loro nomi sotto ai salici, ed erano due di due in un brillante travestimento, erano tutti sguardi loro, sguardi pellegrini, ed erano in cammino tra disguidi e abbracci. Ha chiamato l'Ancillotto. E al centralino ha detto testualmente: posso dedicare questo brano a Valentina? Se no, può, la dedica è fatta. Vabbè, andiamo. Valentina, oramai donna più felice del mondo. Allora, Mario, che cosa bolle nella pentola della politica oggi? Beh, adesso oggi è giornata grande. Education è un pezzo di Pearl Jam e forse ce ne vuole un po'. Stamattina, durante la mia consueta lettura dei giornali, ho trovato un titolo della Gazzetta del Mezzogiorno molto divertente, secondo me è un epitafio, è surreale. E cosa diceva? Diceva: la sintonia della pensione. Ah. Ora, sono tutti d'accordo. Tutti d'accordo. Sulla pensione anticipata, su sollevare il tetto dell'assegno. E vabbè, è strano perché a me hanno insegnato che quando tutti sono d'accordo, solitamente c'è una fregatura per il contribuente che non ne trae un vantaggio. Cioè, in questo caso, i giovani e i produttori. E la cosa è davvero interessante perché è l'educazione, appunto, di un popolo a non produrre, a non creare, a non pensare che la vita, e questo purtroppo sono dati, sono numeri, sono cose accertate, prosegue molto più a lungo di prima. E tu, e quindi? Insomma, cioè, noi, io ho una tabellina, ovviamente, sì, qua, che secondo me dice tutto. Il tasso di impiego degli italiani tra i 65 e i 69 anni nel 2015 è tra i più bassi d'Europa, è appena all'8.6%, e l'Estonia 29.3%, la Svezia 21.6%, il Regno Unito 21.2%, insomma, quindi tu sei la Germania, la cattivissima Germania, 14.5%. Sei contrario, sì, alle pensioni anticipate. Sono contrario alle pensioni anticipate, sono contrario a questa cultura della pensione, sì, alla cultura della pensione, alla cultura della pensione, per cui i vecchi devono andare a riposo in totale quiescenza. Sono contrario alla cultura della senescenza, che è la cultura del declino di un paese che non vuole più produrre, non vuole creare, e mi spiace, vive alle spalle dei giovani che la pensione non l'avranno. Vabbè, ma i giovani ci sono sempre meno, e quindi non ci sarà più la pensione. È la foto, quindi, di un paese in declino. Ma questo è sicuro, non c'è nessun dubbio. Però L'altro aspetto della questione è l'infinita paura. L'infinita paura ti porta all'idea di avere la pensione, e anche per aiutare chi non trova lavoro. Certo, in mancanza di lavoro, uno sogna la pensione. È un circolo drammatico. È finita, vuol dire che è finita. Salamino. Se non ci fosse stato Berlusconi, oggi compie 80 anni e l'Italia intera si specchia in questo cavaliere dalle mille fantasie. mille fantasie, mille volti, mille possibilità, perché lo ricordiamo, è stato testimonial di gelati, è stato costruttore, è stato impresario di spettacolo, è stato, Giovanni, tu conosci bene questa storia, televisionista, televisionario, telegenico e teletotalitario. Ma se non ci fosse stato Berlusconi, domanda che ci domandiamo: come sarebbe oggi l'Italia? Cosa sarebbe stata l'Italia se nel 1994 cosa succedeva? Vinceva le elezioni la gioiosa macchina da guerra con Achille Occhetto, pur definito dal caro amico di Mario Secchi, Francesco Cossiga, zombie coi baffi. Grande scontro. Sarebbe diventato premier. Allora, che cosa sarebbe stata l'Italia? Tutti sarebbero andati in barca con Occhetto, non ci sarebbe stata un'Italia in particolare. Ve la ricordate? Questa Italia qui non ci sarebbe stata. Non ci sarebbe stato colpo grosso, ma soltanto, Giovanni, Mario, la ploretaria stagione degli altolocati di Capalbio, quelli con le signore senza scollature, con tante professoresse democratiche, quelle col cerchietto in testa. E se non ci fosse stato Berlusconi, non ci sarebbe stato Dudu, non ci sarebbe stata Patrizia D'Addario, non ci sarebbe stato Bunga Bunga, e non ci sarebbe stato neppure, lo ricordavi prima, Giovanni, con Bersani, neppure Pratica di Mare, la ritrovata pace oggi perduta tra la Russia e l'America. Insomma, non ci sarebbero stati né Romolo e né Remolo, niente Caimano, ma solo e soltanto magistratura, pretura, poca lavatura, zero stiratura e tutti a letto dopo il TG3. Senza Berlusconi non avremmo avuto il ministro più bello del mondo, Mara Carfagna. Non ci sarebbe stato Umberto Scapagnini con le sue pillole di immortalità, non ci sarebbe stata Sabina Began con i suoi tatuaggi, e l'Italia sarebbe oggi, Dio ce ne scampi, democratica e forcaiola, una specie di DDR alle vongole con Sabina Guzzanti al posto di Belen. Certo, certo, certo, se non ci fosse stato Berlusconi, oggi non ci sarebbe Matteo Renzi. Ma l'allegria di averlo avuto Berlusconi, un contrappasso deve pure averlo, mi sbrigo, non è solo la tragedia a ripetersi in farsa, anche la gioiosa commedia si può capovolgere in una scenetta con Renzi che fa così. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, è una notizia, è interessante. Molto. È interessante, non c'è musica sotto, io la dico perché? Lo stesso. Un po' di Jackson 5 ci sta su questa. No, perché Obama... Anche di più, Anche di più, se volete, giusto. Right. No, perché Obama ha beccato il primo veto della sua storia presidenziale. Lui l'aveva messo su una legge che dava la possibilità ai parenti delle vittime dell'11 settembre di fare causa all'Arabia Saudita. Come sapete, c'è sempre stato un mistero sul coinvolgimento dei sauditi. Ma c'era... insomma, viene fuori che questo 11 settembre non è stato chiarito. Beh, no, direi no. C'è ancora parecchia roba. Mi sembra che ci siano margini. C'è ancora parecchio da capire. I dietrologi forse non saranno soddisfatti completamente, ma insomma qualche cosetta forse l'hanno beccata. Che vi fossero dei legami, diciamo, tra i sauditi e un gruppo di direttatori organizzatori, è chiaro. Questo c'era. Il congresso, però, anzi il senato in questo caso, scusate, ha detto no al veto di Obama, quindi adesso la Camera molto probabilmente tirerà fuori così le carte e vediamo cosa vediamo succede. Cosa succede. Pubblicità. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Mix 24. Ogni uccisione, ogni assassinio suscita in me rammarico e dolore come essere umano. Si tratti di un arabo che uccide un altro arabo, o di un arabo che uccide un ebreo, o di un ebreo che uccide un arabo. Il Signore non ci ha mai autorizzato a ucciderci l'uno con l'altro. E anche quando siamo presi dalla rabbia e dal risentimento, è sempre meglio negoziare e trovare una soluzione. E la ricerca della soluzione di un conflitto, quello israelo-palestinese, è stata per Shimon Peres l'obiettivo finale della sua politica. Una politica distensiva, fatta di compromessi e di negoziati, ma anche di una ferma opposizione al terrorismo internazionale. Nella stessa misura in cui sono convinto che la guerra non deve diventare uno strumento diplomatico o politico, non dobbiamo consentire che lo diventi il terrorismo. Qualora lo diventasse, tutti ricorrebbero al terrorismo come lo strumento più idoneo per raggiungere gli obiettivi che si propongono o i loro sogni. Sulla scena politica dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948, Shimon Peres ha lavorato agli accordi di pace di Oslo del 1993, che l'anno successivo gli sono valsi il Nobel per la pace insieme all'allora premier Rabin e al presidente palestinese Yasser Arafat. Un uomo che non ha mai smesso di credere in una pace possibile, ma mai raggiunta. Dopo il giornale radio, per i gialli della storia, naturalmente questo pezzo del faccia a faccia con Shimon Peres. Adesso con il professor Bernabei, come sempre commentiamo le più importanti notizie di medicina pubblicate sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, luglio 2016. Negli adulti, smettere di fumare da un giorno all'altro migliora l'astinenza più dello smettere gradualmente. La domanda dello studio è stata: è più efficace smettere di botto, smettere di fumare, o in modo graduale? Allora sono stati presi 697 fumatori di età media 50 anni che fumavano più di 15 sigarette al dì e avevano ovviamente il desiderio e la volontà di smettere di fumare. 355 gli è stato detto di smettere all'improvviso, vedremo poi come, e 342 è stato detto di smettere gradualmente. Due settimane prima del giorno zero, quello dove si doveva buttare il pacchetto di sigarette, al primo gruppo, quello che doveva smettere al giorno zero all'improvviso, veniva dato un patch, cioè un cerotto di nicotina, e veniva detto che potevano continuare a fumare per quelle due settimane. All'altro gruppo, quello che doveva smettere in modo graduale, veniva dato sempre due settimane prima del giorno zero il cerotto di nicotina, ma gli veniva detto che dovevano nella prima settimana ridurre del 50% il consumo di sigarette e nella seconda settimana prima del giorno zero ridurre del 75%. Bene, quelli che dovevano smettere d'amblè dopo le due settimane di cerotto andavano molto meglio di quelli che dovevano smettere dopo due settimane di decurtazione progressiva. Infatti succedeva che a quattro settimane il 50% di quelli che avevano smesso di botto ancora reggevano contro il 39%, a sei mesi reggeva il 22% contro il 16% tra quelli che avevano smesso di botto e quelli che avevano invece smesso gradualmente. Il dato inquietante è che è solo il 22% e il 16% comunque di gente motivata riesce a sei mesi a essere fuori dalla cappiola del fumo. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto? Oggi un brano che è considerato il primo brano italiano di rock psichedelico. Racconta la storia di uno sconvolgimento, una giornata esagerata trascorsa quasi come se non ci fosse che lei. Questa canzone per chi domani si sentirà gridare amore con troppo entusiasmo e sospetto. 29 settembre, Equipe 84. Guardavo il mondo che girava.